Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Giada Parlanti ed Elisa Bongiovanni dell'associazione Ex Lavanderia per parlare di Umane Scintille, rassegna di teatro contemporaneo proprio a cura del collettivo dell'associazione Ex Lavanderia al Parco Santa Maria della Pietà, padiglione 31, dal 4 al 6 ottobre 2019. Ben trovate! Ciao, ciao! Ci raccontate? Noi siamo questo collettivo all'interno dell'Ex Lavanderia, abbiamo ristrutturato il piano superiore dove abbiamo fatto questo bellissimo teatro, molto grande, abbiamo questa pedana che è il palco, in realtà è un palco, un finto palco, nel senso è alto 10 cm, quindi è proprio una pedana di legno, di parquet, dove si danza pure bene, così ci hanno detto i danzatori che sono venuti e sono passati da noi, grande circa 140 metri quadrati, con poi tutto lo spazio esterno molto grande, tipo dei corridoi intorno a questo palco, e noi facciamo oltre le prove, oltre che spettacoli di chiunque, qualunque compagnia vuole rappresentare i propri spettacoli può venire a farlo, e poi abbiamo deciso di fare questa rassegna, una rassegna un po' più mirata, in cui questo collettivo fa una scelta, perché poi noi siamo tutti teatranti, da critici a attori, attrici, e quindi abbiamo, insomma, siamo un po' interni a questo ambiente, non conosciamo molte persone, quindi diciamo nella rosa delle persone che conosciamo e che conoscono la Lavanderia e che soprattutto sono sensibili al tema del Santa Maria della Pietà e della nostra battaglia, chiediamo di poter portare per la rassegna i loro spettacoli, insomma le loro creazioni. Con una novità dall'inizio della rassegna, questa è la quarta volta che facciamo la rassegna, la seconda autunnale, perché la facciamo in primavera e in autunno. Diciamo, da quando è iniziata questa rassegna c'è stata la novità della distribuzione delle entrate al 60-40, perché ci è sembrato giusto dare un gettone di presenza, perché di questo si tratta ovviamente, essendo comunque l'entrata sempre a offerta libera, con un consiglio per carità, però insomma è sempre offerta libera, sembrava giusto dare un piccolo compenso a un compagnia di artisti, l'arte va anche pagata, essendo un mestiere, e ci teniamo insomma a dirlo. Quest'anno abbiamo, come ogni anno, noi facciamo il venerdì sera alle 21 per gli adulti, spettacoli per adulti, sabato pomeriggio alle spettacoli per bambini. Va detto che gli spettacoli per i bambini hanno un grande successo, non perché quelli per adulti non ce l'abbiano, ma insomma oggi si sa, il teatro è fruito probabilmente un po' più dai bambini, perché c'è più attenzione nei confronti dei bambini, essendo insomma un periodo difficile per tutti, economicamente parlando, magari un genitore preferisce, ecco, far fluire della cultura al proprio figlio, e poi insomma il teatro si sa oggi un po' di nicchia, va detto. Nel complesso quanti lavori saranno presentati? Dunque sono quattro weekend, quindi sono quattro spettacoli venerdì sera alle 21 e quattro spettacoli sabato pomeriggio alle 17. Come diceva Giada, il venerdì sera sono spettacoli per adulti e il sabato pomeriggio per ragazzi, tranne l'ultimo sabato che invece è una performance poetica, quindi anche quello diciamo più fruibile per adulti che per bambini. Quindi diciamo che gli spettacoli per bambini sono i tre sabati di ottobre. Di ogni spettacolo ci sarà una sola replica? Sì, esatto, una secca, la famosa secca. Sono in realtà spettacoli che magari, la maggior parte di questi sono spettacoli che hanno già girato per Roma e che in qualche modo hanno deciso di partecipare alla rassegna, un po' come diceva Giada, anche per sostenere l'associazione Ex Lavanderia e la defensa che l'associazione porta avanti da anni, che è sull'uso pubblico, sociale e culturale del Santa Maria della Pietà. Ecco, proprio a questo proposito, ci date un aggiornamento sulla situazione? A oggi, come sicuramente sapete, facciamo parte della lista degli spazi che devono essere sgomberati e che la prefettura aveva in qualche modo dichiarato, che avevano dato delle date. Noi siamo previsti per dicembre 2023, quindi abbiamo ancora un po' di tempo di vita prima che succeda qualcos'altro, che può essere un cambio di gestione da parte, insomma, del comune, quindi di cambio politico. Adesso, al di là di questa data dello sgombero, siamo in una fase un po' di stallo perché noi avevamo presentato tempo fa una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare, avevamo depositato questa legge regione e la legge non è mai stata discussa. Avevamo fatto la stessa cosa per una delibera comunale, la delibera invece è passata al comune, quando la Raggi al tempo non era sindaco ancora, ma era all'interno dell'opposizione dei 5 Stelle. E in quell'occasione appunto lei aveva anche sostenuto la delibera, aveva fatto in modo che venisse discussa, però diciamo che nel momento in cui è diventata sindaco questa delibera non è mai stata messa in pratica. Noi abbiamo chiesto più volte alla sindaca un colloquio con lei, abbiamo provato più volte in via ufficiale, in via non ufficiale, anche perché lei aveva anche in qualche modo frequentato l'associazione Extra Lavanderia essendo di zona, quindi conosce perfettamente la nostra realtà, e invece insomma lei è desaparecida, non ci ha mai risposto. In tutto questo, nella sua non risposta, il municipio, il comune, la regione e la ASL, che si dichiara proprietaria di quegli spazi, di tutto il Santa Maria della Pietà, hanno firmato un protocollo d'intesa, il quale protocollo è, direi, ridicolo, è poco, perché è un protocollo in cui di fatto il comune e il municipio hanno regalato i padiglioni del Santa Maria, che ricordo è centralità urbana, alla ASL. Secondo il protocollo sono rimasti, mi sembra, 3 o 4 padiglioni al municipio. Quindi di fatto siamo in una fase di stallo in cui appunto la consulta che doveva essere fatta non è stata fatta, si è deciso di fare un'autoconvocazione di una consulta per far partire l'idea che si aveva sul Santa Maria, e questa consulta autoconvocata sta andando avanti e ovviamente le istituzioni non se la stanno filando in testa, per dirla alla francese. Volevo aggiungere solo una cosa. Credo che, insomma, lo sappiano tutti, noi siamo senza corrente, che ci è stata staccata 2 anni fa, e anche se abbiamo chiesto di pagarla, noi abbiamo chiesto un contatore, ma per tutta risposta ci è stata staccata, punto e basta. E quindi stiamo andando avanti purtroppo con un generatore di corrente, e potete immaginarvi quanti soldi ci costi fare questa operazione, perché il diesel, insomma, non è che ce lo regalano. Oltre a non piacerci perché, insomma, spieghiamo molto diesel e benzina, tutta questa roba qua è inquinante, purtroppo tutti i nostri soldi che servirebbero, e sono pochi perché è un lavoro volontario, ma insomma tutto quello che la lavanderia riesce a ricevere in qualche modo va lì, va a sostenere la luce, altrimenti siamo al buio, compreso anche quando ci sarà la rassegna. Quindi anche per la rassegna dovremo pensare ovviamente di tenere acceso, altrimenti la luce non c'è e gli spettacoli non si possono fare al buio. E poi il padiglione è una cosa gigantesca e per mantenerlo e ristrutturarlo ci vorrebbero dei soldi ovviamente pubblici, perché bisognerebbe sistemare il patio, bisognerebbe sistemare il tetto perché nel teatro si piove, insomma diciamo che abbiamo un po' di problemi strutturali, ma non ci sono questi soldi perché tutti i soldi vanno in diesel e non solo, dovremo anche restituire molti soldi agli avvocati, visto che ci hanno fatto, insomma, ci hanno portato 3 volte in processo che abbiamo perso, poi alla fine, insomma, ci hanno dichiarato illegali e hanno dichiarato il posto dell'altro in maniera completamente illegittima. Insomma, era per dire che siamo abbastanza in situazione di difficoltà, però noi resistiamo e appunto facciamo la rassegna umano e scintille proprio perché la abbiamo chiamata così, perché nonostante che non abbiamo la luce, la scintilla umana delle persone che ci sostengono c'è sempre. Tornando alla rassegna, ci date tutti i riferimenti internet per il programma? Sicuramente sul sito, forse non è ancora stato aggiornato, ma a breve lo sarà, www.exlavanderia.it,

a prescindere dalla vincita finale, loro possono invitare altri produttori per comunque far vedere un lavoro che altrimenti non andava in scena neanche in forma di work in progress. Raccontiamo brevemente anche come era nato tutto. Tutto è nato perché Alessandro Longobardi ha rilevato questo spazio, che non so se conoscete la storia, prima era un cinema, questo spazio diamante in via Prenestina, e poi doveva diventare un bingo. Ecco, questa parola bingo non è tanto piaciuta, allora l'ha rilevato e ha ristrutturato, ha fatto diventare uno spazio con più sale. Abbiamo anche una grande sala per le prove, anche di spettacoli di danza, e un'altra sala più piccola sempre per le prove, poi la sala black, che è la sala teatro con più di 200 posti, e da allora lui ha cercato di far conoscere questo spazio, e grazie a questa cosa qui io sono stato chiamato per organizzare il festival che inaugura la stagione, dopodiché cominceranno gli spettacoli in programma di un normale cartellone. E allora lui mi ha chiesto cosa potremmo fare, e io ho pensato che quando io ero molto giovane e avevo appunto questi progetti nel cassetto, non riuscivo mai a portarli in scena, a farli vedere, perché raccontati a voce non si ha mai lo stesso effetto, e la possibilità, come dicevo prima, di portare in scena anche un work in progress e far vedere le potenzialità di uno spettacolo, ecco, questo è quello che mi sta a cuore, ed è per questo che ho scelto questa linea per questo concorso. I riferimenti ce li hai dati per quanto riguarda il web. Terza edizione del Festival in Divenire a Roma, allo Spazio Diamante, dal 20 settembre al 12 ottobre 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Giampiero Cicciò. Un abbraccio e in bocca mille. Al lupo, e a risentirci presto. Crepi il lupo e un abbraccio a voi e grazie. Con Alessandro Berdini, direttore del circuito ATCL, per parlare di Piccoli Comuni incontrano la cultura, dal 28 settembre al 30 novembre 2019. Alessandro, ben trovato. Salve, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti di questa iniziativa? Certo, allora questa è un'iniziativa molto interessante e molto particolare. È interessante perché chiaramente si mettono in rete tanti comuni, precisamente sono 47 piccoli comuni, sono quelle piccole amministrazioni sotto i 5.000 abitanti. Chiaramente metterli in rete è un fatto interessantissimo, che andiamo a scoprire o a rivedere in qualche modo fatti e cose che abbiamo forse un pochino troppo negli ultimi tempi dimenticato. Loro hanno un patrimonio straordinario, chiese molto belle, hanno musei diffusi, hanno piccole biblioteche, c'è una vita che chiaramente noi che abitiamo in città poco conosciuta e che va con alcuni riflettori accesa e rimessa chiaramente in gioco. Abbiamo inaugurato appunto il progetto con il maestro Piovani all'interno di uno dei borghi più belli d'Italia, fra i 100 borghi più belli d'Italia, San Pietro Romano, ed è stata chiaramente un'esperienza straordinaria. E quindi chiaramente speriamo che continui così, perché il nostro intento come circuito regionale è quello di rendere stabile questa iniziativa tra la città di Roma e i piccoli comuni, perché è un problema non solamente laziale, ma un problema nazionale. I piccoli comuni sono migliaia, e sono migliaia gli abitanti di questi piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti in Italia, sono 10 milioni. Quanti saranno gli eventi nel complesso? 60/70, perché diciamo dal punto di vista degli spettacoli sono 47 serate di spettacolo. Dall'altra però abbiamo aperto dei format che sono interessantissimi, che sono dei format dove andiamo proprio con anche i primi cittadini a parlare di come si vive e di che cosa c'è in questi comuni e di quali sono anche le aspettative della gente che abita in questi piccoli comuni. Quindi c'è un format che diciamo racconteremo e sapremo chiaramente di quello che succede in queste piccole realtà, che si chiama appunto Conversazioni tra vicoli e mura. Poi c'è una bellissima iniziativa con la Film Commission del Lazio, dove parleremo del cinema, che ha avuto una storia fortissima in questi piccoli comuni, soprattutto negli anni 50 e 60, e lo riporteremo nella conoscenza e lo ricorderemo per i giovani, quello che è il significato che ha significato chiaramente il cinema in questi piccoli comuni, dall'altra due bellissime iniziative con due progetti speciali della Regione Lazio in collaborazione con ABC Arte, Bellezza e Cultura. Uno riguarda chiaramente il fumetto e l'altro riguarda appunto che andremo a spasso per questi piccoli comuni con dei nomi della, diciamo, del giornalismo, del teatro, eccetera, eccetera, e poi andremo con la gente a spasso per riconoscere i luoghi francamente eccezionali. Com'era nato tutto? Già anni fa, insieme al nostro presidente Luca Fornari della TCL, anni fa, ci venne in mente che appunto al di là di quelle che erano, diciamo, le strutture che noi accudiamo un servizio, che sono i 30 teatri, diciamo, che sono collocati nelle grandi e medie città del Lazio, abbiamo scoperto francamente che in questi piccoli comuni ci sono delle risorse umane e strutturali veramente belle e interessanti, e quindi è giusto, per ridare l'infa, il piccolo ha bisogno del grande, il grande ha bisogno del piccolo, e questo progetto è questo, vuole significare questo: riaprire le speranze all'Italia, ai piccoli comuni, e chiaramente la cultura e il viatico è un modello che è sicuramente utile per far crescere, ma anche per far conoscere, voglio dire, un pezzo d'Italia che è fondamentale. Ci lasci anche tutti i riferimenti internet per seguire la programmazione? Sì, certo, guarda, i riferimenti internet sono tanti, però il più prezioso, diciamo, è quello nostro, www.atcl.it, atcllazio.it, che è quello, diciamo, più, diciamo, che è tagliato, insomma, su Facebook trovate tutto, sugli altri social trovate tutto, basta digitare piccoli comuni. Per fortuna, e ringraziamo tutti, insomma, ci stanno veramente seguendo con passione e con amore tantissimi social. Veramente, siamo contenti. Piccoli comuni incontrano la cultura in 47 comuni del Lazio. Dal 28 settembre al 30 novembre 2019, un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Berdini, direttore del circuito ATCL. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, grazie. Arrivederci, arrivederci. Viva il teatro. Con Massimo Ferri, uno dei curatori del Festival dello Spettatore ad Arezzo dal 2 al 6 ottobre 2019. Massimo, ben trovato. Ciao, buongiorno, ciao. A che edizione siamo? Questa è la quarta edizione di questo festival che, insomma, appunto ci siamo inventati un po' di tempo fa pensando che volevamo mettere l'attenzione più sugli spettatori che sugli spettacoli, ecco, più sull'idea di partecipazione del pubblico che sulla parte artistica. Ecco, proprio a questo proposito, come era iniziato tutto? Come era partito? Ma tutto nasce in realtà da un'esperienza ormai decennale, forse anche di più, di un progetto che si chiama Spettatori Erranti, che è appunto un progetto della rete teatrale aretina che coinvolge ormai più o meno un centinaio di spettatori nelle varie parti della provincia di Arezzo e che ha questo obiettivo di muovere, appunto, per questo sono erranti, gli spettatori nei piccoli e medi teatri della provincia, andando a scegliersi autonomamente, appunto, come gruppo di spettatori dei titoli nelle singole stagioni, per cui si crea una sorta di abbonamento personalizzato per questo gruppo di spettatori, che non è un abbonamento a un teatro ma a 7-8 spettacoli distribuiti nei vari teatri della provincia. Ovviamente su questi spettacoli vengono fatte anche delle attività di approfondimento, di incontri con le compagnie, per cui, ecco, da questa esperienza, venendo a conoscenza che in giro per l'Italia ci sono molte esperienze simili o comunque con altre dinamiche, ma che comunque riguardano una partecipazione attiva dello spettatore che non va semplicemente a teatro, a parte che la partecipazione dello spettatore è sempre attiva, però, diciamo, attiva e motivata, e quindi ci sono tante esperienze, tanti gruppi di spettatori, e abbiamo appunto pensato di darci questo appuntamento per invitare artisti, spettatori, operatori, critici, tutti insieme 4-5 giorni a incontrarsi, a scambiarsi idee reciprocamente sul tema, appunto, della partecipazione attiva, sia a teatro ma poi confinando su tutti gli altri ambiti della cultura, ma anche della vita quotidiana delle nostre comunità. Ci presenti questa quarta edizione? Intanto partiamo con un'anteprima, perché il festival parte il 2 ottobre, ma lunedì e martedì faremo in un cinema di una delle compagnie del nostro coordinamento della rete teatrale Retina con il film Il sindaco di Rioni Sanità, perché poi l'ultimo giorno del festival abbiamo un incontro con Mario Martone, intervistato da Gianfranco Capitta, e proprio su questa esperienza di film cinematografico basato su un testo teatrale di Edoardo De Filippo. Quindi cominciamo con quest'anteprima che inizia e finisce. Poi abbiamo una giornata dedicata interamente a Pina Bausch nel decimo anno dalla sua comparsa, con un film proiettato, il film Pina di Wim Wenders, proiettato la mattina per il pubblico scolastico, ma anche per chi è libero insomma di mattina per andare al cinema, e poi un incontro su Pina Bausch con Marigia Marcipinto, che ha lavorato nella compagnia di Pina Bausch per 10 anni, e Gianfranco Capitta, e quindi questa sarà l'inaugurazione ufficiale del festival, e la sera di nuovo un altro film sui parchi di Pina Bausch, quindi tutta la giornata. Questo perché, dimenticavo, che tutto il festival quest'anno lo abbiamo voluto dedicare alla figura dei maestri, maestri di scuola, maestri di vita, maestri d'arte, per cui partire con un omaggio a Pina Bausch ci sembrava anche particolarmente in tema. Giovedì cominciamo con un laboratorio aperto a tutti i cittadini, non solo ad adattatori, finalizzato a creare un'azione poetica urbana che poi faremo nel centro della città sabato alle ore 19, che è una coreografia appunto di Pina Bausch, The Nelken Line, curata da Valentina Romito, quindi un gruppo di 70-80 cittadini, alcuni danzatori ma la maggior parte no, parteciperà a questo laboratorio per curare questa coreografia che poi andrà a coinvolgere il centro della città sabato. La sera ci sarà lo spettacolo della compagnia Fondamenta Zero, che è una giovane compagnia che è stata in residenza in uno dei nostri teatri e che ha la particolarità di essere uno spettacolo selezionato da un gruppo di studenti del liceo teatrale di Arezzo, che ha visto dei piccoli pezzi di alcune rappresentazioni che stavano in residenza nei nostri teatri e ha scelto questo testo che riguarda molto il mondo giovanile, riferendosi ai rapporti umani e a come la realtà aumentata o virtuale possa interferire nei rapporti umani, appunto. Poi abbiamo la giornata di studi, Amore per i maestri, dove parteciperanno Chiara Guidi, della Società Raffaello Sanzo, Giuliano Scapia, Silvia Calamai e Andrea Bocconi. Quindi un incontro dedicato ai maestri con uno psicologo, una docente universitaria, un autore regista come Giuliano Scapia e ovviamente come Chiara Guidi. Chiara Guidi che sarà anche in scena il pomeriggio con il suo spettacolo Fiabe giapponesi al Teatro Pietralettino, all'ingresso gratuito. Chiara Guidi, anche lei, noi la consideriamo una maestra ovviamente di quello che è un linguaggio contemporaneo, un modo anche diverso se vogliamo di rivolgersi all'infanzia. Poi, come tutti gli anni, il pullman dello spettatore aspetterà il nostro pubblico per fare la trasferta del festival, che da Arezzo quest'anno andrà a Terranova Arancioline, che sono 30 km più in là, niente di che, per vedere lo spettacolo di Marta Cuscunà, La semplicità ingannata. E tutti gli anni il festival ha un appuntamento in trasferta, che da Arezzo si sposta in un teatro della provincia. Sabato un nuovo incontro di approfondimento a proposito di maestri, appunto con Mimma Gallina, Antonio Taormina e Andrea Maurini, che sono tre guru dell'organizzazione teatrale e anche della promozione teatrale. Lo faremo nella biblioteca del liceo Vittoria Colonna, ma ovviamente aperta a tutta la città e non solo alla scuola. E poi ci sarà il grande appuntamento della reunion degli spettatori, in cui più o meno un centinaio di persone, come dicevo prima, ci sono molti progetti di coinvolgimento del pubblico, di formazione del pubblico in giro per l'Italia, e ormai ci siamo dati questo appuntamento, per cui questa è la quarta gran reunion degli spettatori, in cui gruppi che vengono dalla Puglia, dall'Emilia Romagna, ovviamente dalla Toscana, dal Lazio, insomma un po' da varie parti dell'Italia, si incontrano ad Arezzo per confrontarsi, per fare dei laboratori, per fare delle attività.

e 5 e 6 ottobre a Toffia, provincia di Rieti. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice Alessandra Ferraro di Margine Operativo. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, vi aspettiamo, ciao. Con Marta Pelle, la guida escursionistica nell'evento Libri in Cammino dal 6 ottobre al 1 dicembre 2019. Marta, ben trovata. Ciao Federico, è un piacere. Tutto parte da Four Seasons, partiamo dalle radici, ecco, cos'è Four Seasons? Four Seasons è un tour operator che ormai si occupa da 27 anni di turismo naturalistico e sostenibile. Ed è una realtà che agisce su più fronti. Ultimamente, spiegando il termine di turismo escursionistico consapevole, perché alla base di tutto c'è, cioè, oltre all'amore per la natura e al volerla attraversare, anche un rispetto per i luoghi, per le persone e per la natura che chiaramente si attraversa. Arriviamo a Libri in Cammino. Cos'è? Libri in Cammino è l'unione di due passioni molto forti, una è quella del camminare e l'altra è quella per la lettura. Ho sempre amato leggere, recentemente mi sono anche iscritta all'università per concludere un percorso in lettere e a un certo punto, quando sono diventata guida, ho pensato che leggere è una delle attività più antiche in assoluto. I racconti univano le persone, univano le famiglie, perché non farlo, perché non farlo in natura, che è l'ambiente in cui dovremmo riuscire a vivere meglio. Come si articoleranno questi appuntamenti? È una settimana di escursioni, ci sono diversi appuntamenti che potrete vedere sul sito di Four Seasons Natura e Cultura, e sono escursioni brevi, semplici, adatte a tutti, che durante le quali verranno letti da me o anche da altre persone, dopo te lo spiego, brani tratti da alcuni libri specifici. Ad ogni escursione è associato un libro. Prenderò in considerazione, almeno per questi primi tre mesi, due opere di Italo Calvino, Le città invisibili e il Visconte di Mezzato, e l'antologia di Four River di Edgar Lee Master. Diciamo che i libri sono associati all'identità del luogo, per cui ho fatto i miei sopralluoghi e mi sono resa conto che quelli erano i libri che più avevano a che fare con quei posti. L'idea è proprio questa. Poi c'è un'escursione speciale, che è Libri in Cammino con l'autrice, con Eleonora Santamaria, che ha da poco pubblicato il suo secondo libro, che si chiama Gli Spietati, nella Necropoli Politrusca di Norchia, il 30 di novembre. È speciale perché chiaramente sarà lei a leggere brani del suo libro. Come sarà ogni singolo appuntamento? Cominceremo le nostre camminate e alterneremo dei momenti di cammino vero e proprio, soprattutto nei punti in cui bisogna fare un po' di attenzione perché magari il sentiero è sconnesso, a delle letture di brani abbastanza brevi in alcuni punti specifici, più belli, più panoramici o più significativi. Per cui, per capirci, si camminerà per un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, per poi fermarsi in un punto notevole, riunirsi tutti in cerchio attorno a me che leggo o all'autrice che legge, godersi il momento, ascoltare il posto, ascoltare la storia e continuare. I brani verranno tratti da punti del libro in ordine cronologico, per cui si riuscirà a seguire anche il libro, chiaramente non per intero, perché sarebbe impossibile. Dopodiché ci fermeremo per pranzare all'interno dei parchi che attraverseremo e riprenderemo la nostra camminata concludendola con un brano dalla fine del libro. Per partecipare serve chiaramente l'attrezzatura da trekking? Sì, è necessario avere soprattutto gli scarponcini, perché comunque si attraversano aree naturali in cui il sentiero potrebbe non essere agevolissimo, non sono tutte strade bianche. E pantaloni lunghi generalmente, abbigliamento a strati in base al mese in cui si partecipa, per cui una maglietta, una felpa e una giacca per le escursioni di dicembre. Servirà uno zaino, portarsi il tranzo al sacco e l'acqua, queste sono le cose fondamentali. E per il resto, gambe buone e voglia di ascoltare. Da quante persone sarà composto ogni gruppo? Faremo massimo 25 persone, proprio perché pensiamo che farlo in troppi non funzioni così bene. Nel caso in cui ci fossero più iscrizioni, volteremo delle altre guide. Magari il gruppo diventerà più grande, ma avremo più guide che gestiscono l'escursione. E più o meno che durata avrà nella giornata? Una giornata intera fino al primo pomeriggio. Generalmente si parte fra le 9 e le 10 del mattino e si riesce a rientrare fra le 14 e le 17 del pomeriggio. Dipende dalle escursioni, alcune sono più semplici. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Certo, il sito da consultare è www.viaggi-natura-e-cultura.it. Nella sezione Escursioni Lazio si trova tutto il calendario delle escursioni che facciamo, inclusa la collana dei libri in cammino. E su Facebook ci trovate come Forteto Natura e Cultura, troverete anche gli eventi delle singole escursioni, quindi potete trovare anche gli aggiornamenti più recenti lì. E anche su Instagram è possibile seguire Forteto. Senti, un'ultima curiosità, i criteri di scelta dei testi sono stati tuoi? Sono stati miei. Sì, sono stati miei, a volte molto di pancia, se devo dirti la verità. Okay. Sono testi che amo molto, che ho letto tante volte e che lì ho ritrovato, insomma. Allora, un saluto e un ringraziamento alla guida escursionistica Marta Pelle per Libri in Cammino dal 6 ottobre al 1 dicembre 2019. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Viva il lupo, grazie mille Federico, a presto. Con la fotografa Paola Agosti per parlare della mostra Paola Agosti, cronache e leggende, alla ST Fotolibreria Galleria a Roma dal 1 ottobre al 16 novembre 2019. Paola, ben trovata. Grazie. Ci presenti questa mostra? Allora, è un'iniziativa di Matteo Di Castro, al quale sono molto riconoscente perché celebra così nel suo spazio libreria trattino galleria i 50 anni della mia professione, anche se in realtà le foto ormai le faccio molto poco, ma insomma ho cominciato a lavorare nell'ottobre del 69. Come sono stati gli inizi per una donna fotografa? All'epoca effettivamente eravamo in poche, io però ho avuto come maestra per alcuni mesi una fotografa milanese che era appunto che si era stabilita a Roma e che aveva già alle spalle un'esperienza di fotografa di scena a Milano, al Piccolo Teatro, e quindi insieme siamo andate a cercare lavoro nei teatri romani, abbiamo avuto un piccolo così abboccamento con il Sistina e da lì è cominciato il tutto. Questa fotografa si chiama Augusta Conchiglia, da tantissimi anni non è più fotografa, ma è una celebre africanista, e difatti mi lasciò dopo pochi mesi per andare a vivere in Angola e quindi ho dovuto poi arrangiarmi da sola e inventarmi un po' questa professione, ecco, che è stata ai primi tempi, soprattutto ho seguito l'attualità politica. Soprattutto ecco. Per i più giovani. Raccontiamo un po' quali sono stati i tuoi ambiti di interesse a partire proprio dal 69 in poi. Vabbè, sicuramente come tutti i giovani della mia generazione, io sono nata nel 47, quindi nel 69 avevo 22 anni, c'era il bisogno di cambiare il mondo, c'erano grandi aspettative, grandi speranze e quindi era facile seguire appunto le manifestazioni studentesche, operaie, era facile immaginare che anche con la fotografia fosse possibile trasformare un po' il mondo, cosa che poi chiaramente non è avvenuta, ma questa è stata l'illusione, forse la forza che ci ha guidato in quegli anni. Poi all'inizio degli anni 70 in tutti noi c'era un po' il mito dell'America Latina e quindi ho avuto la fortuna e il privilegio di poter viaggiare tra il 70 e il 71 in America Latina, nel Cile di Salvador Allende, insomma di fare delle belle esperienze formative che fotograficamente anche mi hanno dato un po'. Alcuni dei tuoi sguardi li hai dedicati anche al movimento femminista. Sì, questo ovviamente avviene un po' più tardi, intorno al 75, se non ricordo male, quando ho la possibilità con un editore romano, Savelli, di fare proprio un libro sul movimento femminista, che il libro si intitolò Riprendiamoci la vita, e da allora io fino all'inizio degli anni 80 ho seguito il movimento femminista romano. Dopodiché mi sono distaccata perché poi contemporaneamente facevo tante altre fotografie, quindi però sicuramente oggi quelle foto hanno un valore storico che non immaginavo mai potessero avere. Il tuo percorso poi come si è modificato nel tempo? Beh, sostanzialmente ho continuato a essere una fotoreporter in tutta la decade degli anni 70. Alla fine del 77 ho letto un meraviglioso libro di Nuto Revelli, Il mondo dei vinti. Nuto Revelli raccoglie in quel libro testimonianze di vita contadina nella parte più povera della provincia di Cuneo, nelle valli e nell'Alta Langa, e io decido di fotografare quei suoi stessi testimoni e quel mondo, che era un mondo assolutamente, ahimè, arrivato alla fine, era un mondo che si stava disgregando perché l'industrializzazione aveva spostato gli uomini e le donne verso la pianura, verso la Michelin, la Ferrero, verso la Fiat a Torino, quindi in qualche modo mi interessava documentare l'agonia di quel mondo, un percorso veramente che è stato per me molto importante e che forse oggi costituisce il mio lavoro, cioè il lavoro che viene più apprezzato tra i miei lavori fotografici. Sì. Paola, la mostra di quanti scatti si compone? Credo 50 scatti, sono un po' un percorso dei miei appunto 50 anni di fotografia, perché vanno poi naturalmente dopo il mondo dei vinti, ci sono tutta una serie di altri reportage di taglio etnografico, antropologico, seguo l'emigrazione piemontese in Argentina e poi soprattutto con un'altra fotografa, Giovanna Borgese, pubblico un libro con i ritratti di un centinaio di protagonisti della cultura novecentesca. Il libro esce da Einaudi nel 92 e si intitola Mi pare un secolo, e sono rappresentati gli intellettuali che avevano attraversato il Novecento. Ecco, da quel momento lì forse il ritratto è l'aspetto della fotografia che mi interessa di più, però ritratto inteso sempre come reportage, cioè non è il ritratto nella sala di posa con le luci artificiali, ma sono questi personaggi, questi vecchi ritratti nelle loro case, nei loro studi, nei luoghi dove vivono. Come mai questo titolo, Cronache e leggende? Questo dovresti chiederlo a Matteo, perché io non l'ho capito bene, veramente. No, forse lui, parlando di leggende, si riferisce a certi personaggi che io ho fotografato e che forse oggi costituiscono una leggenda, come Orson Welles, come Andy Warhol, come lo stesso Fellini che compare nella locandina della mostra. Ecco, penso che sia quella. Poi Cronache, perché in realtà il mio è stato anche un lavoro di cronista. Sì. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per seguire il tuo lavoro? www.paolaagosti.com. Non sarà aggiornatissimo, ma ci sono tutte o buona parte delle foto che saranno esposte a ST, senza titolo, libreria e galleria, via Bartolomeo Dalviano al Pineto. Il titolo della mostra è Paola Agosti, Cronache e leggende, dal 1 ottobre al 16 novembre 2019. Un saluto e un ringraziamento alla fotografa Paola Agosti. Un abbraccio, in bocca al lupo, grazie, e alla prossima. Mille, grazie mille, grazie al lupo, alla prossima, grazie. Siamo all'agenda della settimana teatrale con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ben trovato, caro mio. Ciao a tutti. Andiamo a vedere un po' questa settimana che cosa ci offre il panorama teatrale romano. Allora, intanto Teatro India da stasera, dal 1 ottobre, fino al 6, fino a domenica, c'è la compagnia dell'Accademia Silvio D'Amico che porta in scena quattro giovani registi con quattro testi contemporanei, dei quali uno è una drammaturgia originale. Quindi quattro belle esperienze di giovani nuovi registi. Si tratta di Sul Lago Nero di Paolo Costantini, che sta in scena oggi e domani, il testo di Dea Lofer, racconta la storia di due famiglie che si incontrano dopo quattro anni per interrogarsi sulla scelta dei propri figli, che scelgono di continuare a vivere e per non essere contaminati scappano da un mondo che non è bello. Questo è poi il fulcro, l'assenza di questi ragazzi in qualche modo fa confrontare queste famiglie con i propri errori. Sempre oggi e domani per La Ballata di Babbaluci, ovvero Il viaggio mancato di un uomo in vasca, ed è scritto e diretto da Marco Fasciana, una favola in 12 capitoli per raccontare il viaggio del protagonista alla scoperta di se stesso, dalla sua terra e la Sicilia e delle sue fantasie. Un viaggio in mare e in vasca da bagno. Il 5-6 ottobre una bellissima domenica Crevecoeur di Tennessee Williams con la regia di Tommaso Capodanno, un progetto studio guidato da Arturo Cirillo sui testi del drammaturgo americano. Questa commedia sentimentale racconta il rapporto con la solitudine di quattro zitelle che si incontrano per caso in una casa di periferia nell'America degli anni 30 e così parlano della loro condizione. Sempre 5-6 ottobre, un classico, un capolavoro, Le lacrime amare di Petra von Kant di Rainer Werner Fassbinder con la regia di Federico Gagliardi. Petra è una stilista di successo, accanto a lei la segretaria Marlene che l'ama perdutamente. L'esistenza di Petra viene turbata dall'incontro con Karin, che di origini proletarie è però separata dal marito con una storia familiare molto difficile alle spalle. Karin è giovane, spregiudicata, e Petra la invidia, e insomma, diciamo, nel rapporto un po' vampiresco tra le due nascono queste famose lacrime amare, che sono anche un po', diciamo, la chiusura di questo festival a Teatro India dedicato ai registi dell'Accademia Silvio D'Amico. Andiamo poi all'Angelo Mai, dove 3 e 4 di ottobre l'Angelo ospita Muna Mussi, una performer e coreografa regista nata nell'officina del Teatro Valdoca, che da un po' di anni faceva spettacoli firmati da lei, e l'Oasi è questo lavoro che è un richiamo, un rifugio, una apparizione, una possibile salvezza, questo immaginario, una sorta di microcosmo molto fragile, c'è un luogo chiuso e raccolto però visibile all'occhio esterno. L'artista, che è residente a Bologna ma è d'origine eritrea, riflette sulle fobie, sui fantasmi e soprattutto sulla fragilità della protezione. Quindi questo è un po' il lavoro che verrà ospitato dall'Angelo Mai il 3 e 4 ottobre. Muna Mussi. Andiamo ancora avanti perché al Teatro Vascello arriva la danza, il dialogo orientato a danza e tecnologia, 4-6 ottobre, per questo Robot, che è ideato e diretto da Ariella Vidac e Claudio Prati, con coreografie della stessa Vidac. È uno spettacolo che vede in scena un incontro tra otto danzatori e un braccio robotico danzante dotato di telecamere e videoproiettori, quindi qualcosa che ha a che vedere con il dialogo tra dimensioni umane e dimensioni virtuali, un'esperienza molto particolare che approfondisce questo ambito della ricerca tecnologica sull'interattività. Quindi 4-6 ottobre per i Robot al Teatro Vascello. Questa è la settimana anche dell'inizio di Umane Scintille, dal 4 al 26 ottobre all'associazione Ex Lavanderia Santa Maria della Pietà, ed è un festival particolarmente interessante perché è molto vario, soprattutto, e perché insomma è in un luogo che è restituito un po' alla città, almeno ogni tanto per un po'. Si inizia con questo weekend, il 4 ottobre, Pepe di Laura Riccioli, ed è un lavoro che Laura Riccioli ha fatto per riflettere sulla condizione carceraria attraverso un lavoro che lei stessa ha compiuto all'interno di un carcere femminile che porta avanti in realtà da 7 anni, si incontra questa donna insegnante con una detenuta e dal loro dialogo insomma nasce un po' una riflessione sulla condizione carceraria. E l'abbiamo in archivio? Sì. L'abbiamo in archivio, sì, perché in realtà è da un po' di anni che lo fa. Sabato è l'occasione per vedere Mamma Lucco di Chiara Spoletini. Mamma Lucco, opera pop, il paese delle meraviglie di Luigi, che nella vita reale è un trentenne con un ritardo che lo obbliga a formulare pensieri di bambino. Questo per il primo weekend di Umane Scintille al teatro di Santa Maria della Pietà. Andrei un po' avanti perché al teatro Quarticciolo 5-6 ottobre arriva l'Umic Teatro, che debutta in prima assoluta con Cervus del drammaturgo americano Aaron Mark. Si tratta di un lavoro sarcastico, pungente, che non è stato mai rappresentato in Italia. Ken e Cinzia sono marito e moglie, un weekend in campagna. Lui parla, lei si limita ad ascoltare, forse ascolta, chissà. Sono rimasti soli, la figlia è andata all'università, il gatto è scappato, la madre è morta, però accade l'imprevisto. Durante il loro viaggio verso la solitudine investono un cervo e questo cambierà un po' la loro vita sentimentale, emotiva. 5-6 ottobre per questo Cervus di Aaron Mark, appunto per l'Umic Teatro al Teatro Quarticciolo 5-6 di ottobre. Poi e intanto ti segnalo che al teatro Eliseo dal 4 ottobre fino al 16 sarà proiettato con 4 spettacoli giornalieri e comunque con orari un po' particolari da vedere sul sito del teatro Eliseo, Thanks, che è questo film tratto dal lavoro teatrale di Carrozzeria Orfeo. Fino al 13 ottobre Thanks si tratta di un lavoro appunto tratto dalla drammaturgia di Carrozzeria Orfeo, Thanks for Vaselina, spettacolo che in questi anni ha girato molto, soprattutto appunto al Teatro Liceo, che finalmente vede lo schermo e si trasforma in un film, una trama molto molto complessa, cioè il traffico internazionale di cambi di sesso, cambi di identità, droga e insomma quant'altro. Questo per Thanks, che ci piace insomma segnalare. Al Teatro Argo comincia la stagione con la trilogia dell'essenziale. Si inizia proprio questa settimana e si tratta di 3 drammaturgie originali di Valentina Diana, interpretate tutte e 3 appunto in modo essenziale, un attore, pochissimi oggetti, Marco Vergani. La direzione è di Vinicio Marchioni insieme alla collaborazione di Milena Mancini. Il 3 si comincerà con il loro ormai insomma classico Renato Cane, che è un lavoro appunto diretto da Vinicio Marchioni, che va a cercare di evidenziare insomma questo grande bisogno di certezze che si strutturano all'interno della scelta capitalista di comprare sempre di più per appunto acquistare forse anche le certezze. E se anche la morte fosse trasformata in un prodotto, la compreremmo? Questa è la provocazione di Renato Cane e lo andremo a vedere il giovedì 3 al Teatro Argo Studio. Il 4 sarà la volta di Una passione, cioè il tentativo di un attore di rappresentare in un monologo uno spettacolo sulla passione di Cristo, e quindi il tentativo in qualche modo di andare anche a ricercare un po' un dialogo con la spiritualità, con l'impossibilità forse di afferrare completamente il messaggio religioso da parte dell'umano. Invece il 5-6 ottobre, sempre con gli stessi protagonisti, andremo a vedere La nipote di Mubarak, questo lavoro che insomma ci ricorda un po' la vicenda che è stata vissuta qualche anno fa insomma dal nostro allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi a proposito della nipote di Mubarak, così era stata dichiarata, Ruby, e non mi ricordo come altro si chiamasse, la quale insomma si professava nipote del presidente egiziano Mubarak. In realtà è appunto un dialogo con la finzione, con la messa in scena, che parla dell'Egitto, parla di una certa tradizione politica che però è vista dall'interno di un kebab milanese. Questo appunto per il teatro Argo Studio. E vado a segnalare poi tutto ciò che appartiene a Roma Europa Festival. Ti segnalo che questa è una settimana con molta molta danza e con un bel po' di circo. Allora, forse il lavoro diciamo della settimana, i lavori della settimana sono tutti un po' pensati verso la danza. Ti segnalo sicuramente il 4 ottobre, ma era Oscar Cassiani che presenta questo Spirit per Roma, negli spazi del mattatoio, nel foyer, alle ore 22, un percorso basato sulla transizione dalle maschere vernacole tradizionali della Sardegna verso nuovi riti contemporanei e generazionali. Questo è piuttosto intrigante. Andiamo anche a vedere cosa oltre ci offre il programma di Roma Europa Festival. Marco Donnarumma e Margherita Pevere con Human Methods, un'anteprima assoluta in cui, sapete, al mattatoio venerdì 4, che è poi la giornata un po' dedicata, tutto il weekend in realtà dedicato alla danza al mattatoio, presenta un'anteprima assoluta. Questa produzione insegna il dialogo fra entità umane, robotiche e sintetiche, quindi anche qui insomma c'è qualcosa di robotico, come nello spettacolo del Vascello, a confrontarsi con una società sgretolata, animata da desideri più che umani, un sistema disfunzionale che pervade i corpi di suoni, di luci e si nutre di dati che sono con biosensori sui corpi dei performer, quindi una cosa molto molto particolare, questo dialogo tra entità. Poi successivamente, sempre al mattatoio, andremo a vedere il danzatore e coreografo Hiroaki Umeda, giapponese, con due performance in prima nazionale, saranno 5 e 6 ottobre, Median, e l'altra è Intentional Particle, è una performance con una fusione di danza, musica e video, in cui particelle di luce e corpi concorrono alla costruzione di ambienti che appunto danno vita alle coreografie, quindi un ipnotico spettacolo sospeso tra reale e virtuale, anche qui è un po' diciamo il tema della settimana. Ancora ti segnalo questo lavoro Miércoles di Nicolas Jarre, che è un musicista, e Stefanie Genaina, che è una coreografa e danzatrice, presenta una performance in cui suoni e movimenti sono rigorosamente improvvisati e una sorta di show specific scritto da due artisti e progettata insieme all'artista visivo Madiar Palevan, che non so da dove venga, ma insomma ce ne guardiamo bene. Questo per quanto riguarda il Roma Europa Festival al mattatoio, ma questa è la settimana del teatro circo, perché andremo sicuramente a vedere James Thierry con il suo nuovo spettacolo Raoul, che viene presentato appunto al Teatro Argentina e porta in scena qualcosa di veramente mirabolante, che insomma giudicato dalle foto sembra molto molto interessante. Da mercoledì 2 fino a domenica 6 è un innovatore delle forme circensi, questo artista capace di tirar fuori emozioni e sogni dallo spazio, utilizzando i linguaggi del circo, della danza, del teatro, insomma ci saranno teglieri parlanti, vestiti animati, meduse, ombrello, elefanti fantasma, insomma tutto ciò che nel circo sembra illusione ma è rigorosamente realtà, oppure il contrario, chi lo sa, lo scopriremo a Roma Europa Festival questa settimana. È questo, Federico, è tutto, un abbraccio Simone, alla prossima, ciao a tutti. Con Cristina Dell'Acqua, autrice del libro Una spa per l'anima. Cristina, ben trovata. Grazie, grazie mille, ben trovati a tutti voi, buongiorno. Come lo presenteresti a chi ci ascolta? Partirei dalla cosa che mi sta più a cuore. È un percorso che ci spinge un attimo a curare la nostra interiorità, ma che è rivolto soprattutto a chi ha studiato i classici magari in gioventù e poi li ha abbandonati nella sua vita, oppure a chi mai li ha studiati, perché come sempre mi piace dire, a 14 anni ognuno è libero di fare le proprie scelte, ma io ho un dispiacere che queste persone non possano incontrare la bellezza di certi testi. Lo presenterei così. Come è nato tutto? Primo dal fatto, sostanzialmente, dal mio amore per i classici. Io li insegno da 28 anni, li insegno ai ragazzi, mi capita spesso di insegnarli anche agli adulti, io insegno latino e greco regolarmente a degli adolescenti, quindi la sfida forte è questa. Primo. Secondo, mi è piaciuto trasformarli in un libro costruito a tappe, perché sostanzialmente è costituito da 9 capitoli che sono 9 percorsi sull'amore, temi che hanno a che fare con noi, l'amore, i figli, la responsabilità, il desiderio di cambiamento, l'adolescenza, interrogando i classici sostanzialmente, no? Quindi cercando di vedere come i classici greci o latini possano calarsi e dare una risposta nella nostra vita. Questo da un punto di vista, se vuoi, didascalico, ma anche perché a me hanno insegnato che sarebbe bello che ognuno di noi bevesse una sorsata di bellezza al giorno. E questo maestro che me lo insegnava, per sorsata intendeva un libro, una musica, una conversazione con un amico. Quindi lo spirito è esattamente questo, da cui la sta, che è la salus per aquam, come ben sai. La scelta delle tematiche e degli autori? Allora, degli autori, quelli che amo. Ho avuto la fortuna di poter scegliere, quindi sono partita dagli autori che amo, ma per un semplice motivo, perché sono quelli che sono entrati proprio nella mia vita. Per cui io sono partita, faccio proprio degli esempi concreti, da Seneca, da delle letture di Seneca, per arrivare a ragionare sul senso dell'interiorità che tutti noi abbiamo, ma non tutti sappiamo di avere, e che va esercitata come qualunque altro aspetto della vita. Oppure mi è piaciuto scegliere brani di tragedie, ho scelto un pezzo di Alcesti per parlare di amore, un pezzo di Antigone per parlare di padre e figli, un pezzo del Prometeo per parlare di Eschilo, e la tragedia è stata un po' una sfida, come immagini, perché le tragedie, solo il nome a volte evoca le cose peggiori, eppure a me piace dire che le tragedie sono storie, punto. Sono storie che ci raccontano il punto di vista greco sugli aspetti che entrano poi a far parte di noi. Poi mi è piaciuto parlare di parole, mi è piaciuto parlare anche di cura di se stessi, di cura di se stessi a me piace dire alla greca, che avevano questo concetto che l'ordine che noi ci diamo, cioè la cosmesi per usare una loro parola, ha una corrispondenza molto forte fra la nostra, diciamo, l'ordine che si vede, che mostriamo agli altri, cioè l'aspetto della bellezza cosmetica, ha una grossa corrispondenza con l'ordine che noi cerchiamo di mettere dentro di noi. Una cosa non può esistere senza l'altra nella mentalità greca. E mi è piaciuto raccontare anche questo concetto anche attraverso ricette di bellezza che Ovidio nell'antichità ci lascia nei dettagli. Cosa apprezzi dei vari autori, della loro scrittura e del loro pensiero? Il fatto che ci leggono, hanno con un giusto distacco cronologico e anche con delle differenze notevoli rispetto alla nostra contemporaneità, ma hanno intuito, dato un nome a degli aspetti che hanno a che fare con la nostra vita, con la nostra quotidianità e con la nostra profondità, e li hanno saputi raccontare e vedere da tutti gli aspetti possibili senza darci risposte, ma secondo me, almeno quello che io amo di più, mettendoci negli occhi il maggior numero di domande possibili su quello di cui loro parlano. Quando Seneca ci dice, non so, vindicate tibi, no? Quindi rivendicati a te stesso. Ci dice quali sono i suoi errori, le sue difficoltà, quando sbaglia, come sbaglia, quando si trova in mezzo alla gente, quando va agli spettacoli dei gladiatori. Quindi ci parla dei suoi errori, ma non ci dice che esiste una strada vera, fissa, e che se non la si riesce ad individuare dovrebbe appunto creare in noi dei sensi di colpa. Ci dice siamo uomini e come uomini viviamo tutti sotto lo stesso cielo e abbiamo tutte le stesse imperfezioni da affrontare. Mi piace come loro le hanno affrontate. Rispetto ai classici e a un punto di vista, una prospettiva di donna e femminile, c'è però comunque una carenza. Cioè perché effettivamente quello che noi abbiamo sono sostanzialmente, è la realtà vista da autori maschili, sostanzialmente, con pochissime eccezioni nella storia della letteratura greca e latina. E questo non c'è nulla di sbagliato, però sono prospettive. Sono prospettive che sono differenti, no? Anche se io e te parlassimo di questo momento, lo stesso momento lo racconteremo in due modi differenti, no? E allora mi è piaciuto un po' scavare laddove ci sono autori che inseriscono questa visione, che a me non piace neanche differire dal punto di vista, come dire, del sesso, ma della sensibilità. Euripide è uno che inserisce, è un autore che inserisce la sensibilità femminile, il punto di vista femminile delle sue tragedie. Non a caso quando parla d'amore, io parlavo prima di Alcesti, mette sul tavolo il punto di vista di una donna che si sacrifica e si interroga su che cos'è l'amore, quest'amore è sacrificio di sé, può essere una cosa che ci annulla, l'amore è essere amati, può dare amore davanti a un marito egoista, no? Nel caso specifico di Alcesti. Questo è uno degli scorci, a mio modo di vedere, più significativi, questo e altre tragedie di Euripide, sia chiaro, però è uno degli scorci più significativi dello sguardo femminile sul mondo, che è completa, non è né migliore né peggiore, completa. Cristina, in chiusura, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Oh, certo, allora io sono su Facebook col mio nome e il mio cognome e anche su Instagram col mio nome e il mio cognome, Cristina Dell'Acqua, una spa per l'anima. Un abbraccio di in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, un abbraccio forte a te e buona giornata a tutti. A presto. Con Nicola Feruglio, autore del libro L'uomo nuovo sarà Mapuche per Booksprint Edizioni, uscito agli inizi di settembre 2019. Nicola, ben trovato. Buongiorno a te Federico e un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Raccontiamo questo libro, di cosa si parla? Questo libro nasce da una vicenda reale, perché la storia di un'esperienza antropologica che un gruppo di 12 soci dell'associazione Antropologia Terzo Millennio ha realizzato a Malvinas Argentina nel 2016, entrando in contatto con una comunità Mapuche, appunto la comunità Mapuche di Malvinas Argentina, se avendo l'altissimo privilegio ed onore di partecipare ad una cerimonia di guarigione equinoziale. E bisogna dire che questa vicenda ha una mediatrice importante, perché noi siamo riusciti ad entrare in contatto con questa comunità attraverso la mediazione della giornalista e fondatrice nonché direttrice della rivista di relazioni internazionali Reconciliando Mundos, Maria Cecilia Benatte. Noi il 25 settembre di 3 anni fa entriamo in contatto con questa comunità Mapuche e il racconto è una sorta di narrazione certamente soggettiva, perché c'è un monologo interiore del protagonista che racconta tutto quel che accade nell'arco di questa lunga cerimonia equinoziale, ma è incrociato questo racconto fortemente biografico con tantissime questioni che sono associative, culturali e soprattutto che ha come fondale, come contesto ampio e amplificato, un incontro che poi diventa anche ufficiale, perché noi entriamo in contatto con i responsabili di questa comunità e Sicilia è una sorta di alleanza culturale che noi stiamo portando avanti, portando ovunque la tematica dei Mapuche e raccontando della ricchissima e particolatissima cosmovisione che essi insegnano e diffondono. Quanto tempo avete trascorso all'interno della comunità? Ma siamo stati un'intera giornata, prima c'è stata la cerimonia e poi c'è stata una festa folclorica alla quale abbiamo partecipato. La cosa interessante è che questa mediazione, questa giornalista Maria Cecilia Benacche, è stata così concepita, nel senso, noi prima abbiamo pregato con loro, cioè ci siamo fatti trascinare antropologicamente e spiritualmente nella vicenda della cerimonia equinoziale e poi si è creato un momento spontaneo in cui noi abbiamo portato dei doni ai due sciamani, nonché responsabili della comunità, un uomo e una donna, e si è creato un contesto spontaneo di confronto culturale. Noi abbiamo portato in dono una statuetta arcaica della dea Atena, della dea guerriera, visto che loro combattono in difesa della terra, di una concezione della terra che tra l'altro troviamo anche molto radicata in Occidente, e poi insomma ci hanno addirittura dato la parola e concedendoci di spiegare, ecco, culturalmente il perché della nostra presenza e di come avremmo poi voluto aiutarli. E tra l'altro di questa vicenda c'è anche un video su YouTube in cui il sottoscritto è Mario Gualmes, che è lo sciamano, e io in Comaputi di Malvinas Argentina, si confrontano e si fanno reciproci doni. Come si caratterizza la cosmovisione Mapuche? Ecco, questa è la bellissima domanda, grazie Federico. La cosmovisione Mapuche molto spesso viene un po' ridimensionata e per una visione un po' eurocentrica noi la distinguiamo. Anzitutto Cosmovisione è un termine bellissimo che ce ne ricorda un altro caro alla cultura europea e cultura tedesca, che è Weltanschauung, un termine caro a Jung, ma non solo, insomma, tutta la tradizione letteraria tedesca del Novecento. E cosmovisione implica quindi una visione del fenomeno vita che è animato dall'interezza, dalla completezza, che è quello che un po' manca alle nostre scienze e anche ai nostri punti di vista. Ecco, Tommaso d'Aquino direbbe, parlando di cosmovisione, anche se chiaramente lui si occupa di altro, si occupa di simpatia e di empatia, direbbe Tommaso d'Aquino che parliamo di una conoscenza universale che avviene per connaturalità affettiva, cioè prima ancora della elaborazione di elementi logici e razionali c'è una sorta di consustanzialità tra la persona e l'ambiente, tra l'uomo e l'ecosistema, per la quale, l'ecosistema viene assorbito, viene integrato, viene percepito. Quindi la cosmovisione è un'esperienza solamente culturale, sonora, simbolica, tecnica, ma è soprattutto un'esperienza psichica attraverso la quale l'uomo mapuche integra in sé la percezione dell'ecosistema. Io, studiando e vivendo direttamente con loro queste esperienze, vi posso dire che in fondo questa è la prospettiva ecosofica che poi filosofi come Arne Nesse e psicanalisti come Guattari hanno spiegato nel Novecento, insomma, una prospettiva per la quale l'uomo non è più al centro del cosmo, ma è parte dell'ecosfera, dell'ecosistema, e trova una collocazione equilibrante e profondamente rispettosa. Mm-hmm. Ecco, se mi concedi ancora un minuto su questa bellissima domanda che mi hai fatto, mi piacerebbe citare, perché gli ascoltatori capiscano ancora meglio cosa sia la cosmovisione, una scrittrice e attivista mapuche che si chiama Moira Millan, che era in Italia pochi giorni fa a Venezia, in una manifestazione, e una delle cose più belle che ha detto è questa, che cito, lei ha detto: io in Europa, e mi è capitato solo in Europa, ho trovato e ho visto il cadavere di un fiume, nel senso che lei, vedendo i fiumi italiani e europei, dice: ho visto solo lì da voi, qui da voi, il cadavere di un fiume. E cosa vuole dire? Sembra una stupidaggine un po' così poetica e priva di logica, ma in realtà lei vuole dirci che un fiume per i mapuche non è solo un'opportunità per produrre utili, per esempio elettrici o alimentari. Il fiume per i mapuche è un evento, è un ente. E che cosa lei non trova attorno al fiume? Perché lei poi dice: ho visto che vi erano le rocce, vi era l'acqua, vi erano gli alberi, ma il fiume era morto. Cosa manca in questa visione della Moira Millan? Manca in Europa lo sguardo quantistico, l'effetto osservatore che l'uomo non conferisce più agli eventi, ai fatti naturali. Per cui manca questo incrocio tra osservato e osservatore che rende un fenomeno, un evento, non più una possibilità di utili economici e neocapitalistici, ma un fatto sul quale narrare, da descrivere. In fondo, noi guardiamo un bosco e vediamo un grande bottino per utili che attraverso il disboscamento ci concederà infinite ricchezze, il mapuche in un albero vede un ente che gli sta parlando. Ecco, credo che questa sensibilità o questa cosmovisione sia assolutamente da recuperare, soprattutto se vogliamo guardare e criticare profondamente i cementi della ideologia o della filosofia neocapitalistica che ha azzerato qualsiasi dibattito culturale di rilievo. In quante persone è stimata la popolazione mapuche e in che rapporti è con l'autorità? Mi sembra fantastica anche questa domanda, perché parliamo di 1,5 milioni di persone stanziate nel cono del Sud America e tra Argentina e Cile, quindi parliamo di tantissime persone. Il popolo mapuche ha una storia bellissima, io lo definisco un popolo sapiente in resistenza, nel senso che ha costantemente subito tentativi di prevaricazione e di dominazione fin dai tempi meno sospetti, perché tentarono perfino gli Inca di violarli, di invaderli, ma non ci riuscirono. Lo tentò anche questo tipo di reazione l'impero spagnolo, ma non riuscì nemmeno esso a prevalere. Quindi parliamo di un popolo che ha resistito più degli Aztechi, più dei Toltechi, più di qualsiasi altra etnia indigena sudamericana, e che ha resistito in questi secoli e ha lottato per difendere un'identità. Ecco, molto spesso quando io parlo di Mapuche nelle conferenze, negli incontri, qualcuno giustamente mi dice: ma insomma, gli Aztechi hanno edificato piramidi, gli Inca sappiamo che tipo di matematiche, di scienze scolpite nella roccia ci hanno conferito, cioè i Mapuche che cosa stanno difendendo? Ecco, io molto spesso rispondo: i Mapuche non hanno edificato piramidi, né cattedrali, né ponti, né opere architettonicamente meravigliose, il motivo di stupore, ma hanno costruito un antropos, che io definisco un antropocosmo, e che è esattamente, in prospettiva ecosofica, l'uomo integrato consapevolmente, ragionevolmente nella natura. Quindi che cosa difendono essi con tanta forza e resistenza? E difendono una tipologia di uomo, secondo me oggi fondamentale per radicarci nella realtà, in questa complessissima realtà. Il tuo libro ha ottenuto dei riconoscimenti e avrà anche un percorso scolastico. Sì, il libro, prima di essere pubblicato per la Brooksprint Edizioni, è stato premiato alla 7ª edizione del Premio Nazionale Letteratura Italiana Contemporanea per la sezione racconti brevi. È stato inserito nell'antologia Un pensiero di fine giornata a cura di Laura Capone Editore, ma la cosa bellissima è che questo racconto, insieme agli altri premiati, verrà fatto leggere, perché verrà distribuito scolasticamente, cioè verrà fatto leggere agli studenti delle scuole superiori milanesi attraverso il progetto Un giorno da giovane, che è presentato a novembre nella manifestazione Book City Milano all'Aula Magna Siam. Ecco, la cosa interessante è che significa che studenti che vengono formati termini tipicamente europei, con una cultura certamente eurocentrica, potrebbero venire stimolati da questo antropos mapuche, da questo punto di vista che io direi essere veramente attuale e fondamentale, anche perché parlando con alcuni giornalisti, alcuni rappresentanti di mapuche in Argentina, ora la grande preoccupazione della cultura mapuche e dei suoi rappresentanti è che dopo l'Amazzonia un'operazione analoga possa venire in Patagonia. Ecco, c'è il timore molto ragionevole, e quindi gli studenti potrebbero ricevere anche da questo racconto uno stimolo ad aprire un po' gli occhi su una visione un po' più planetaria e un po' più articolata. Ecco, proprio a questo proposito, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più sul web? Sì, voi potete tranquillamente trovare tutte le informazioni riguardo al libro sul sito della Brooksprint Edizioni, il libro chiaramente in commercio ovunque. Poi, oltre a essere autore, sono anche presidente di questa associazione che entrò in contatto con Mapuche 3 anni fa, e quindi potrete trovare molte informazioni anche sulle attività che noi facciamo in sostegno della causa Mapuche sul sito web di Antropologia al Terzo Millennio. L'uomo nuovo sarà Mapuche di Brooksprint Edizioni. Un saluto e un ringraziamento all'autore Nicola Feruglio. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. A prestissimo Federico, grazie a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Con Vincenzo Sparagna, presidente della Repubblica di Frigolandia. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, con te per parlare di questa esperienza, ci racconti? Ah, è un'esperienza molto, molto interessante, che è cominciata nel 2006. Noi eravamo ridotti ormai a una microsede romana a Trastevere, ma piccolissima, qui era difficilissimo anche soltanto organizzarsi. Dopodiché qui, attraverso vicende che non vi sto a dire, finalmente abbiamo scoperto, per puro caso, che c'era in affitto un bando pubblico posto che nessuno voleva, era andare al deserto varie volte il bando. E noi abbiamo semplicemente accettato i termini del bando pubblico e presentato questo progetto che insomma dipende da noi, di questa prima repubblica marinara di montagna, che poi è anche la città immaginaria dell'arte mai vista, eccetera, una serie di definizioni che segnalavano per noi in modo chiaro, per il comune forse non tanto, comunque segnalavano l'idea di creare un centro di riflessione culturale, un centro anche di accoglienza di artisti, di amici, insomma, di nostri ideali concittadini repubblicani e marinari. E insomma, questo è nato nel 2006, qui abbiamo la redazione di Frigidaire e il Nuovo Male, tutto coordinato da Mayla Navarra, che è bravissima, insomma, che fa anche la grafica, oltre ad essere un'artista, disegnatrice, c'è anche moltissimi collaboratori, naturalmente sono molto più giovani di me, fortunatamente, e quindi c'è anche una grande energia, una passione, ecco. Abbiamo ristrutturato questi edifici, perché ci sono degli edifici all'interno di un parco di 2 ettari di bosco, molto bello, ex colonia peraltro di Balilla Fascisti, tanto per dire come bizzarra la storia. Dopodiché decine e decine di ragazzi, insomma, ci hanno dato una mano, abbiamo sistemato i tetti, messo a posto, ridipinto le pareti, insomma, sistemato le stanze. E quindi abbiamo questo piccolo museo dell'arte mai vista, la redazione dei giornali, facciamo delle feste, a volte facciamo dei seminari, degli incontri, insomma, diciamo che non ci organizziamo mostre, insomma, ecco, un'attività di questo tipo che è nello stesso tempo artistica, di pensiero, e anche per certi versi politiche, perché raccoglie poi in fondo migliaia di persone che sono venute qui, insomma centinaia e centinaia di nostri concittadini immaginari, perché poi sono quelli che si comprano il passaporto di Friulandia che costa 100 euro, però dà diritto a star qui 7 giorni o quello che te pare un po'. Per i più giovani raccontiamo anche un po' l'avventura Frigidaire. L'avventura di Frigidaire ormai è una lunga marcia, per citare Mao Zedong, è proprio una lunga marcia attraverso le periferie di questo mondo strano. Insomma, noi siamo usciti la prima volta addirittura nel novembre del 1980, quindi siamo a 39 anni di rivista. Venivamo peraltro da 2 anni intensissimi con il mare, Cannibale, il mare. Quindi Frigidaire è sempre stato un progetto di racconto del mondo in contemporanea, insomma un'antropologia del presente, come posso dire un'enciclopedia illuministica del mondo contemporaneo, fatta però mese per mese, insomma passo passo, e quindi ha attraversato veramente tutte le stagioni di questi 40 anni, dai tempi in cui esistevano solo i giornali, fino adesso che quasi non esistono più, nel senso che internet, i vari mezzi, lo stravolgimento e la straordinaria anche rivoluzione che è avvenuta nei mezzi di comunicazione rende l'intero sistema in qualche modo dell'informazione, dell'espressione, eccetera, diverso da prima, e quindi in qualche modo dobbiamo sempre adeguarci. Naturalmente il vantaggio è stato che, essendo molto aperti, non chiusi come in un gruppo, capito, i fondatori e basta, siamo solo noi in accidente, da noi sono arrivate migliaia e migliaia di firme, di ragazzi, ragazze, giovani, vecchi, anziani, medi, adulti, alti e bassi, più o meno straordinari sul piano artistico, e che comunque hanno creato nell'insieme una sequenza di racconto veramente fantastico. Tutto c'è di tutto, capito, dall'India fino ai guai dell'agricoltura in Lombardia, insomma, ecco per dire. Posto insomma il bisogno, la ricerca di una nuova sede, come mai l'idea di fondare una repubblica? Ma l'idea è nata perché dovevamo un fondo da battezzare questo luogo, che è una redazione, oddio, dal punto di vista della comunicazione, qua ci informiamo su New York esattamente come faremo da un palazzo di Milano o da Palermo, insomma, no, perché i mezzi ormai sono quelli, quindi l'idea di stare nel centro di una grande metropoli, insomma, noi ci siamo ugualmente, idealmente ci siamo lo stesso, quindi da questo punto di vista anche soltanto una redazione in un luogo a meno, perché quel posto è bellissimo, devo dire la verità, c'è una bella collina, un bel panorama, aria, cose del genere, quindi si sta bene. Però in un certo senso è di più, perché è anche, diciamo, l'occasione di quell'incontro tra persone che naturalmente proprio nei sistemi virtuali nettamente dominanti attuali è ridotto, mentre invece qui ritorna un elemento dell'invenzione conviviale, ecco, come posso dire, di quando si stava intorno a un tavolo e poi magari Andrea da Sivizza diceva una cosa, io la dicevo un'altra, e veniva fuori una battuta fantastica, capito? Perché c'è anche un rimbalzo delle persone, insomma, e quindi in questo io devo dire, per esempio, quando scrivo, io faccio leggere tutto quello che scrivo, leggere e correggere a chiunque mi capita a Dio, proprio non ho esitazioni a riscrivere un pezzo tre volte, aggiustando, perché in fondo c'è una sensibilità di ciascuno, insomma, e questa sensibilità, diciamo, l'occasione di far incontrare queste sensibilità è un po' frivolante, quindi in questo senso è una repubblica anche perché non ha, cioè accetta al suo interno diversissime figure, quindi ci possono essere gruppi che continuano a fare il loro lavoro fantasticamente, bene o male che siano, sono brillanti o più o meno che siano, singoli, ci possono essere i contadini come i disegnatori, ecco. Infatti ci sono contadini, operai, disegnatori e scrittori proprio mischiati felicemente insieme. Che ragazze, donne, insomma anche lì di varie età, perché c'era dalle mamme con i bambini fino alle ragazze, fino alle donne più mature. C'è bisogno di un passaporto? Sì, per dormire qua c'è bisogno di un passaporto, questo passaporto va diritto a 7 giorni con 100 euro, poi uno dei 7 giorni si può anche sgranare nell'arco di un anno, insomma non è che deve stare a forza fisso qua 7 giorni. Dopodiché invece naturalmente ogni tipo di visita, di incontro eccetera è completamente libero e non è che per vedere il museo si paga, no? Assolutamente no. In genere poi capita che chi viene si compra qualche giornale vecchio, quindi una certa economia continua a esserci anche sulle copie storiche, diciamo, del male, di Frigideri, tutte le ormai le molte testate che abbiamo inventato nell'arco di questi 40 anni. Mi dicevi di un rapporto non semplice con l'amministrazione regionale. L'amministrazione regionale, provinciale, comunale ci sono tutti ugualmente ostili. Non abbiamo nessun tipo, non dico di complicità, ma neanche di interesse. Cioè nel senso, dopo l'avvio di questa cosa che questi ci vedevano un po' come degli alieni, però il posto era abbandonato. Dopo un anno noi facemmo una conferenza con il mio Oreste Scalzone, un mio carissimo amico e compagno da tantissimi anni, ormai insomma la vita, e mo, al di là del fatto che magari non siamo completamente identici dal punto di vista del pensiero politico, però siamo molto simili e ci vogliamo molto bene. Insomma lui ha collaborato a Frigideri dall'81 in poi, dopo le varie vicende, quando già stava in esilio. Poi la latitanza, come si preferisce, insomma torna finalmente prescritto nel 2007 e noi organizziamo una conferenza stampa qui, anche perché Frigideri era un po' un territorio neutro rispetto a quelli che erano gli schieramenti politici, insomma PD, Rifondazione, all'epoca esisteva ancora Rifondazione di Affini. Quindi ha fatto questa bella conferenza stampa, sono venute tante persone, giornalisti, eccetera, è venuto anche il sindaco del paese, il quale però poi è stato attaccato pesantemente. Dopo si è dissociato, insomma si è dissociato, si capiva da che visto che abbiamo solo assistito alla conferenza stampa. Vabbè, ma insomma parte questi elementi era del Partito Democratico, manco a dirlo. Dopodiché cominciarono una causa contro di noi di sfratto, dopo un anno che stavamo qui, dopo che avevamo fatto un sacco di lavoro. Queste cause durante 4 anni, poi finalmente non vi sto a dire, l'hanno persa, hanno pure pagato le spese legali. E da allora siamo praticamente in una specie di armistizio della guerra di Corea, capito? Che non finisce mai, loro stanno di là, noi stiamo di qua, noi paghiamo normalmente gli affitti, le tasse, cioè quello che sia, loro studiano continuamente nuove forme per mandarci via, però non ci riescono. A questo si aggiunge la totale imbecillità delle istituzioni, anche sul piano più elevato, provincia, regione, eccetera, per cui non parliamo della Marina, Ambrosiona, sì, quella che è incaricata, ma anche quella precedente, così, ma sicuramente sarà quella seguente o quella seguente, ci ignorano completamente, poi ci vengono pericolosi, non so per cosa, ma evidentemente facciamo una certa paura. Comunque devo dire, alla base poi c'è un'immensa ignoranza di questo scelto politico, veramente una sterminata ignoranza, oltre che i vari imbrogli, malafede e vari. E quindi siamo autonomi, cosa che a noi peraltro va benissimo, perché insomma, abbiamo nessuna intenzione di trattare con lo Stato italiano, noi apparteniamo all'Unione Planetaria, cioè una Repubblica immaginaria che appartiene a un'Unione immaginaria. Quindi. In chiusura, per tutte le informazioni, ho visto che c'è un sito internet di Frigolandia. Sì, c'è un sito internet che è quello www.frigolandia.eu. E poi abbiamo naturalmente le pagine Facebook di Frigideri, Nuovo Male, io stesso, Frigolandia, insomma ci sono delle pagine Facebook. Insomma sì, c'è un'intensa comunicazione. Poi facciamo ancora i giornali Frigideri, Nuovo Male, però mandiamo solo gli abbonati perché le edicole hanno chiuso in quantità industriali e quindi è quasi impossibile distribuire le edicole. E allora ricordiamo la Repubblica di Frigolandia, un saluto e un ringraziamento a Vincenzo Sparagna, direttore di Frigider e presidente della Repubblica. Vincenzo, un abbraccio, in bocca al lupo, ci vediamo lì. Un abbraccio a voi e venite sempre là. Un abbraccio a tutti, arrivederci. Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.